piacevolmente scosso ed agitato, in delirio sotto un palco illuminato. Ti vedevo volare come una farfalla nera in sogno, proprio quello di cui avevo bisogno. Sì, proprio così, la mia dolce pantera, la mia splendida gioia nera. Sì, proprio così, la mia dolce pantera, la mia splendida gioia nera. Eva come faceva e si muoveva, ed io sognavo, lei risplendeva come cantava in quella sera, stella lassù come Prozac più, come Prozac più, come Prozac più, come Prozac più, come Prozac. Sto dedicando le mie ore per scriverle adesso una canzone migliore, seguendo le orme di un appetito sicca che mi sussurra all'orecchio le note del basso, e la sento veramente quando il cielo ride. La la la la, la la la la. Forse domani non mi sveglierò, in fondo il bene che cos'è? Prozac più. Eva come faceva e si muoveva, ed io sognavo, le risplendeva come cantava in quella sera, stella lassù come Prozac più, come Prozac più, come Prozac più, come Prozac più, come Prozac. Eva come faceva e si muoveva, ed io sognavo, le risplendeva come cantava quella sera, stella lassù come Prozac più, come Prozac più.